Benvenuti all'arte del vizio, cazzo. Dottoria che non è qua con noi, un bacione. Buonasera a tutti. Purtroppo sì, è iniziato un nuovo anno e siamo ritornati noi cazzoni dell'arte del vizio, che siamo stati in sospeso per così tanto tempo. Abbiamo quattro ascoltatori. Quanti non ne lo abbiamo? So, ma quanti sono le 20:04 e siamo in un ritardo bellissimo, in un inizio molto punk. Ci ha raggiunto il batterico Mannaro, che non ci faceva visita da un po' di tempo. Che bello Palmiro. Qua a Radio Wombat speriamo di fare un po' di concorrenza sleale a Radio Blackout, che ha iniziato a fare i live domenica pomeriggio rubandoci l'idea. Vai Palmi, tutto tuo. Thank you. ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Se non si era capito, siamo qua a frittole come se niente fosse. Siamo freddi. Siamo partiti frittellosi. Però il climax c'è stato, dice. Climax c'è stato, va bene, va bene, va bene. Allora, benvenuti, se volete, benvenuti a prove, alle prove live. Se volete scriverci per dirci di smettere, se siete nostri coinquilini anche potete farlo a frittole@gattini.ninja. E va bene, prossimi pezzi, poche chiacchiere, dici. Sì, scusa, non abbiamo niente da dire oggi. Mi dispiace, reverendo, non sono di molta compagnia oggi. I nostri radioascoltatori, radioamatori. Radioamatori. Sei cambiato, Palmiro, ti vedo leggermente. Come? Cambiato? Che sei? Eccitato? No. Leggermente? Così, non hai ancora tirato fuori la chitarra nuova. Ti sei persino fermato di suonare. Mi hai distratto. Cosa volevo dire? Volevo dire niente. Salutiamo i nostri 8 ascoltatori, entità. Scoppia tutto. Thank you. C'è un fischio in studio. Ma va bene così. Attenzione. Ci fischieranno da casa i nostri ascoltatori. Sentiamo i vostri fischi da qui. Miriadi di fantasmi mi corro nella testa. mi. Miriadi di fantasmi mi corro nella testa, miriadi di fantasmi mi corro nella testa. Un cambio, è stato bellissimo. Telepatia si chiama, l'abbiamo allenato per tanto tempo, finalmente ce l'abbiamo fatta. La luccicanza. Quattro bambini sperduti che non hanno mai suonato insieme. Non vi si sente al microfono, purtroppo. Oh. No, dicevo mentre... Sì, sì, cosa dicevi? No, Diesis mi ha sbattuto il microfono sui denti, ma volevo dire siamo quattro bambini sperduti che non hanno mai suonato insieme, quindi stasera, cioè insomma, come possiamo dire? Ci succate fino alla fine. Tutto molto bello. Allora, dato che stiamo improvvisando completamente, potete votare chiamando mandando un SMS al 488666 mandare un pezzo che non stiamo suonando noi o se continuare a suonare. Per favore, mandateci un messaggio. Nel frattempo continuiamo. uno dei grandi classici. Di longe di soldi, sogno di longe di ficar con você, di ficar con você. Beira do mar, do sol, do sol, do longe sai. Girirà, giri, lere do sol, do sol, do sol. Geberi da da de gibigiri da de de gede de da gede. Thank you. l'avevamo anche studiata. Tra l'altro, non è vero, cioè la sentivamo solamente io e il reverendo, bambino e reverendo. Si sentiva. Avete parato. Non è regolare. Facciamo un bluesettone, un blues rock. Tutto quello che vuoi, Palmiro. Fammi. Siamo qui per te. Fammi canzoni. Blues it down. Che devo fare? Vuole un yeah. Sì, ho la cantante che diretta. Una cantante rock del sud America, del sud degli Stati Uniti. Ok. Tempo passa, i nostri ascoltatori e ascoltatrici si annoiano. Ci siamo. Shango meu rei senhor, salve meu orixá, tem se ci core sua cor, se ci dias para chamar. Salve Shango meu rei senhor, salve meu orixá, se ci cuore sua cor, se ci dia spara a gente Shango, meu rei, senhor. Shango, meu rei, senhor. Shango, meu rei, senhor. Ten se ci core sua corazzo. Ten se ci core sua corazzo. Oh, Shango. Meu rei, senhor, meu rei, senhor, meu Dirlo da casa non era male, non era poteva male. Andare peggio, poteva andare peggio. Allora sono passate abbiamo suonato per 40 minuti solo 40 minuti, uno stacchetto. Vi metto DJ Sentimento, che questa è una compilation bellissima degli Uruguay direttamente. Culi Sudaka Mix 2020. Allora, siccome gli ascoltatori sono aumentati e siccome sono aumentati di uno, e siccome siamo ancora stanchi, abbiamo mandato un altro pezzone che è Mr. Mitch e DJ Alex desde el barro. Gustatevelo. We'll be right back.

State sognando, sono le 21.03, siete sempre su Radio Wombat, questa è sempre l'arte del fischio e perdonateci amici, corredattori, corredattrici, compagni e compagni di radio, perdonateci, stasera siamo così, ma la diversità è un valore e per giunta E per giunta stasera è un programma diverso. Ok, siamo in pausa, se volete descrivo la situazione. Diesis si sta cambiando, no, si è messa una felpa diversa da quella che aveva prima, adesso è grigia. No, prima ce l'avevo uguale. Cosa hai cambiato? Sì, ok, dalla lana al cotone. Palmiro è sempre in piedi, imperturbabile, è indeciso se usare il distorto o meno. Il batterico Mannaro ci guarda con aria alquanto assorta. Credo che attenda qualcosa da noi. Guarda con aria affermativa Palmiro. Alza le corna. Yo. Sì, erano i tre allegri ragazzi morti. Questi? Davvero? No, sto scherzando. cambiare canale. Se volete cambiare canale, fate pure. Non ci mancherete. Ci stiamo provando. Allora, ci abbiamo provato a fare un cambio. Poi non c'è venuto, per cui ci siamo demoralizzati, non ci siamo guardati molto negli occhi. Sì, sguardo solo, a terra. Solo la cupa è triste. Però a me piaceva, dopo tutto era un bel giro. È la cupa. Riproviamo. Siete pronte per un bis? Va bene, dateci altri 2 minuti. Ti piaceva la vera? Aspetta. Thank you. sì, abbiamo perso Diesis all'ultimo. Mi sa che l'abbiamo spiazzata un po' troppo. Dovevamo fare roba questo più soft, troppo, dice. Va bene, riposiamoci un attimo. Vi mando un pezzo, un altro pezzo veramente che non c'entra niente con quello che stiamo facendo ora. È la cumbia pirata di Marcos. Siamo sempre Latin American e Gianti. Mami, io te disco, tu llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te arranco, oh, oh, y no pasa nada. Tenetevi pronte. Intanto salutiamo i due ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno abbandonato in questo istante. Capisco, capisco, anch'io avrei cambiato radio. Darte una noche como la que soñaste. En una esquina aparte, llevarte, tocarte y vacilarte. Haré lo que sea para capturarte. Darte una noche como la que soñaste. En una esquina aparte, llevarte, tocarte y vacilarte. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a ti. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te arranco, oh, oh, y no pasa nada. Tú no ves un gato, oh, oh, él no va a ser nada. Burra. Si te cruzan por la calle dicen burra. Si te cruzan en el baile dicen burra. En el barrio se comenta que sos burra. Allora ci rendiamo conto che abbiamo messo dura prova la vostra pazienza, soprattutto durante l'ultimo pezzo in cui non ce la stavamo raccattando. Anche la pazienza dei coinquilini di Frittole è stata messa a dura prova. Però niente, cioè, ci avviamo verso il finale. Sappiate che sarà molto triste. Sarà classico Palmiro style. E niente, faremo l'ultimo pezzo e poi ce ne andremo a cena. Nel frattempo, dato che ci siamo ancora stanchi, vi mando Senta Prende di MC Flavigno e MC GV, sempre da Montevideo, Uruguay. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, s El 15 Big Clip. Io, se ci stai ascoltando, sappi che ti vogliamo bene e vogliamo bene anche te, Beppi. Torniamo in studio lentamente qua a Frittole, Radio Wombat, un'altra domenica sera, 31 gennaio, era da un bel po' che non andavamo in onda, finalmente abbiamo tolto gli Incamiscia che erano lì live nelle repliche che giravano da un mese e mezzo. Nel frattempo ci siamo un po' riposate e Palmiro ha cambiato strumento. Ed è questo che, quello che suonerà il suo regalo di compleanno, cioè il suo strumento nuovo, è un regalo di compleanno nuovo. Faccelo gustare. Facciamo l'ultimo pezzo e poi ci leviamo di culo. Bene. Salute e ringraziamenti. Bene, bene. Ma qualcuno ha scritto di smettere? No, nessuno ci ha scritto, questo è un buon segno. Nessuno ci ha detto che dovevamo smettere, per cui insomma contiamo, sì, sì, sì, è un fatto positivo, contiamo sul fatto di esservi piaciuti. E niente, se tutto va bene ci risentiamo domenica prossima o tra due domeniche, oppure tutto andrà malissimo e non ci sentiremo mai più, per cui insomma è stato un piacere. Salutiamo di nuovo Radio Wombat e le vostre povere orecchie. Qui un saluto dal reverendo, un saluto da Diesis, amici e amiche, grazie per averci seguite e una buona serata. Ciao Palmiro, ciao Batterico Mannaro. Mettiamo un ultimo pezzo trap per fare ancora più schifo. Via Bellentanina numero 22 di Sao Paulo. Ciao Paolo. Hanno strumentalizzato la guerra tra poveri. Anche oggi non li ho visti, ci sono già dentro. Quando è che vedremo le intenzioni dei poteri? Se voi faceste una grande merda, la mostrereste al grande pubblico. Ignora quel che dico, ignora quel che faccio. È solo entertainment, non mi frega un cazzo. Anche oggi un truzzo uscito di galera per rapina a mano armata, ora torna a farlo. Anche oggi sono uscito di casa solo per comprare le sigarette al tabaccaio. Vedi com'è semplice quando hai davanti una massa di massai drogati. Ignora quel che dico, ignora quel che faccio. È solo entertainment, non mi frega un cazzo. Ho solo voglia di... sulla gente che mi ha voluto male. Ho solo voglia di... da sto posto di merda e non farmi più vedere. Ho solo voglia di... e non fare più pesare ste bollette a mia madre. Ho solo voglia di... ma devo stare lucido e non farmi delle pare. Oggi un cartellone dice oggi mi voglio bene, infatti siamo usciti a bere. Anche oggi qualcuno ha imparato che ogni forma di governo è una dittatura. Ma come amministro lo Stato se non amministro me stesso, miniti o meno? Sto posto al cesso, ignora quel che dico, ignora quel che faccio. È solo entertainment, non mi frega un cazzo. Anche oggi non so che dire a chi amo, se non andiamo a fare una rapina a mano armata. Con i volti scoperti, la sigaretta in bocca, dopo una boccia di vodka e poi il solito post e mat, mattatoio, un anno e ci votano. Sto posto è così, una grande piazza vuota. Ignora quel che dico, ignora quel che faccio. È solo entertainment, non mi frega un cazzo. Ho solo voglia di... sulla gente che mi ha voluto male. Ho solo voglia di...